Ad alta voce, Patrizia Zappamulas legge Nemici, una storia d'amore, di Isaac Singer. Traduzione di Bruno Dera. Herman, ogni volta che fingeva di essere in viaggio per vendere libri, passava le notti con Masha nel Bronx. Aveva una camera nell'appartamento di lei. Masha era riuscita a sopravvivere, agli anni nel ghetto e nei campi di concentramento. Lavorava come cassiere in un ristorante economico in Tremont Avenue. Il padre di Masha, Meyer Block, era figlio di un riccone, Reb Mendel Block, un proprietario di case a Varsavia che aveva avuto l'onore di sedere alla tavola del rabbino di Alexandrover. Meyer parlava il tedesco, era diventato uno scrittore ebraico di qualche rinomanza e un protettore delle arti. Aveva potuto fuggire da Varsavia prima che i nazisti occupassero il paese, ma soltanto per morire in seguito di denutrizione e dissenteria nel Kazakistan. Masha si era iscritta alle scuole ortodosse e in seguito aveva studiato in una scuola media ebraico-polacca di Varsavia. Durante la guerra, sua madre, Shifra Pua, era stata mandata in ghetto, ma Masha in un altro. Non si dividero più, finché non si ritrovarono a Lublino dopo la liberazione nel 1945. Herman, pur essendo riuscito a sopravvivere alla catastrofe di Hitler, non capiva come avessero potuto salvarsi quelle due donne. Lui era rimasto nascosto per quasi 3 anni in un fienile. Si trattava di un vuoto nella sua vita che non si sarebbe mai potuto colmare. L'estate in cui i nazisti avevano invaso la Polonia, egli si trovava in visita presso i genitori, a Civkaf, mentre sua moglie, Tamara, era andata, con entrambi i bambini, dai suoi a Nawanchesh, una stazione termale dove suo padre possedeva una villa. Herman si nascose dapprima a Civkaf, poi da Jadwiga a Lipsk, evitando così i lavori forzati, sia nel ghetto, sia in un campo di concentramento. Udì gli urli dei nazisti e gli spari dei loro fucili, ma gli fu risparmiato di vederne le facce. Settimane trascorsero senza che egli scorgesse la luce del giorno. Gli occhi gli si abituarono all'oscurità, le mani e i piedi gli si intorpidirono a furia di restare immobili. Lo morsicavano insetti, topi campagnoli, grossi topi di chiavica. Gli venne la febbre alta e Jadwiga lo curò con erbe cotte nei campi e con vodka rubata a sua madre. Nei propri pensieri, Herman si paragonava spesso al savio del Talmud, che, stando alla leggenda, aveva dormito per 70 anni e, destandosi, si era trovato in un mondo così estraneo da indurlo a invocare la morte. Herman conobbe Masha e Shifra Pua in Germania. Masha era sposata con un certo dottor Leon Totschiner, uno scienziato che si diceva avesse scoperto o avesse contribuito a scoprire una nuova vitamina. Ma in Germania il dottore passava le giornate e una buona metà delle notti giocando a carte con una banda di contrabbandieri. Parlava un polacco fiorito e di quando in quando faceva il nome di professori e di università con cui asseriva di aver avuto rapporti di lavoro. Tirava avanti con quello che gli passava il comitato e con il poco che Masha guadagnava rammendando e modificando esibiti. Ma Masha, Shifra Pua e Leon Totschiner precedettero Herman in America. Quando egli arrivò a New York, incontrò di nuovo Masha. Lavorò dapprima come insegnante in un Talmud Torah, poi come correttore di bozze in una piccola tipografia dove conobbe il rabbino. Nel frattempo, Masha si era separata dal marito, il quale, risultò, non aveva fatto scoperte, né poteva vantare alcun diritto al titolo di dottore. Egli aveva adesso come amante una donna anziana e ricca, vedova di un imprenditore edile. Herman e Masha si erano innamorati quando si trovavano ancora in Germania. Masha giurava che una zingara, una chiromante, le aveva predetto l'incontro con Herman. La zingara lo aveva descritto sino al più piccolo particolare, ponendola sull'avviso per quanto concerneva le sofferenze e le difficoltà che sarebbero state causate dal loro amore. Mentre prediceva il futuro di Masha, la zingara era caduta in trance, svenuta. Tanto Herman quanto Tamara, la prima moglie, erano cresciuti nelle case di famiglie benestanti. Il padre di Tamara commerciava in legnami ed era socio con un cognato in una vetreria. Aveva due figlie, Tamara e Sheva. Sheva era morta in un campo di concentramento. Herman invece era figlio unico. Suo padre, Reb Shmuel Leib Broder, era un uomo facoltoso, proprietario di assunse un rabbino perché istruisse suo figlio nella religione ebraica e un maestro polacco perché gli insegnasse materie secolari. Sperava che il suo unico figlio diventasse un rabbino moderno. La madre di Herman, che aveva frequentato un ginnasio tedesco a Lemberg, voleva che egli studiasse medicina. A 19 anni, Herman si recò a Varsavia, superò gli esami di ammissione e si iscrisse alla facoltà di filosofia. Sin da quando era più giovane, aveva dimostrato di essere portato alla filosofia. Leggeva tutte le opere filosofiche che riusciva a trovare nella biblioteca di Civcaf. A Varsavia, contro la volontà dei genitori, sposò Tamara, una studentessa di biologia, attiva nei movimenti di sinistra. Sin quasi dall'inizio non andarono d'accordo. Discepolo di Schopenhauer, Herman aveva deciso di non sposarsi mai e di non mettere al mondo nuove generazioni. Si era confidato con Tamara per quanto concerneva questa sua decisione, ma lei, rimasta incinta, non aveva voluto saperne di abortire e si era rivolta alla propria famiglia perché lo costringessero a sposarla. Nacque un maschietto. Per qualche tempo ella fu un'ardente comunista e si propose addirittura di trasferirsi nella Russia sovietica con il bambino. In seguito abbandonò il comunismo e si iscrisse al Partito Sionista Polacco. Né i genitori di Tamara né quelli di Herman erano in grado di continuare a mantenere la giovane coppia e i due si guadagnarono da vivere dando lezioni private. 3 anni dopo il matrimonio, Tamara diede alla luce una bambina. Secondo Otto Weininger, considerato allora da Herman il filosofo più coerente, una creatura senza alcun senso della logica, priva di memoria, amorale, nient'altro che un ricettacolo del sesso. Durante la guerra e negli anni successivi, Herman ebbe tutto il tempo per pentirsi del proprio comportamento nei riguardi della famiglia, ma fondamentalmente rimase quello di sempre, privo di fede in se stesso o nella stirpe umana, un edonista fatalista che viveva immerso in una tetraggine suicida. Le religioni mentivano, la filosofia era una bancarotta sin dall'inizio, le oziose promesse del progresso non costituivano altro che uno sputo in faccia ai martiri di tutte le generazioni. Se il tempo è soltanto una forma della percezione o una categoria della ragione, il passato è presente quanto l'oggi. Caino continua ad assassinare Abele. Nabucodonosor continua a massacrare i figli di Zedechia e a cavare gli occhi a Zedechia. I pogrom non finiscono mai. Gli ebrei continueranno ad essere bruciati in eterno ad Auschwitz. A coloro che non hanno il coraggio di por termine alla loro esistenza, rimane una sola via d'uscita: rendere insensibile la coscienza, soffocare il ricordo, estinguere l'ultimo residuo di speranza. Una volta uscito dall'ufficio del rabbino, Herman prese la sotterranea per il Bronx. La gente si affrettava e si spingeva a vicenda nella calura della giornata estiva. Sul treno rapido per il Bronx, tutti i posti erano occupati. Herman si afferrò a una maniglia. Sopra la sua testa un ventilatore ronzava, ma l'aria che smuoveva non era fresca. Non aveva comprato il giornale del pomeriggio e pertanto lesse gli annunci pubblicitari, annunci di calze, cioccolata, minestre in scatola, funerali dignitosi. Il treno si gettò in una stretta galleria. Anche le vivide lampade del vagone non riuscirono a escludere quella tenebra di pietra. Ad ogni stazione nuovi gruppi di passeggeri entravano spingendosi. L'odore dei profumi e del sudore si mescolavano nell'aria. Il trucco si scioglieva sulle facce delle donne, il loro rimmel formava striature e si raggrumava. A poco la folla si diradò. Il treno correva adesso in superficie, sulla sopraelevata. Attraverso finestre di fabbriche, Hermann vedeva donne bianche e negre muoversi energicamente intorno alle macchine. In una sala dal basso soffitto metallico, uomini seminudi giocavano a biliardo. Una ragazza in costume da bagno giaceva distesa su una brandina pieghevole, su un tetto a terrazza, facendo il bagno di sole al tramonto. Un uccello volò attraverso il cielo di un azzurro pallido. Anche se i palazzi non sembravano vecchi, gravava sulla città un'aria di vecchiume e di sfacelo. Una bruma polverosa, dorata e infuocata, rimaneva sospesa sopra una cosa, come se la terra fosse penetrata nella coda di una cometa. Il treno si fermò sulla sopraelevata e Hermann si precipitò fuori dallo sportello. Corse giù per i gradini di ferro ed entrò in un giardino pubblico. Lì crescevano alberi ed erba, proprio come sarebbe accaduto nel bel mezzo di un campo. Uccelli saltellavano qua e là e cinguettavano sui rami. A sera le panchine dei giardini pubblici erano tutte occupate, ma a quell'ora vi sedevano poche persone anziane. Un vecchio stava leggendo un quotidiano Yiddish attraverso un paio di occhiali azzurrati e una lente d'ingrandimento. Un altro si era rimboccato una gamba dei calzoni fino al ginocchio e si scaldava al sole la gamba affetta dai reumatismi. Una vecchia lavorava a maglia, con lana ruvida e grigia, una giacchetta. Hermann voltò a sinistra, nella via dove abitava Masha insieme alla madre. C'erano soltanto poche case, separate da terreni da costruzione invasi dalle erbacce. Vi si trovava un vecchio magazzino con le finestre chiuse da mattoni e il cancello sempre chiuso. In una casa in rovina, un falegname stava costruendo mobili che vendeva non rifiniti. Sulla facciata di una casa vuota, le cui finestre erano state sfondate, si vedeva il cartello «In vendita». Sembrava a Hermann che quella via non riuscisse a decidere se continuare a far parte del quartiere o rinunciarvi e scomparire. Chiffrapois e Masha abitavano al terzo piano di un caseggiato dalla veranda rotta. Le finestre del pian terreno erano chiuse con assi e pezzi di latta. Una scala traballante conduceva all'ingresso. Hermann salì due rampe di scale e si fermò, non perché fosse stanco, ma perché gli occorreva tempo per completare una fantasticheria. Che cosa sarebbe accaduto se la terra si fosse spaccata in due parti, esattamente tra il Bronx e Brooklyn? Lui sarebbe stato costretto a restare lì. Un'altra stella avrebbe attratto in una costellazione diversa la metà con Jadwiga. E che cosa sarebbe accaduto? Se la teoria di Nietzsche sull'eterno ritorno era vera, forse questo evento aveva già avuto luogo un quadrilione d'anni prima. «Dio fa tutto ciò che è capace di fare», aveva scritto da qualche parte Spinoza. Hermann bussò alla porta della cucina e Masha aprì immediatamente. Non era alta, ma la sua esilità e il modo di tenere la testa davano l'impressione che lo fosse. Aveva capelli neri con una sfumatura rossiccia. Hermann amava dire che erano fuoco e pece. La carnagione di lei era di un bianco abbacinante, gli occhi di un celeste chiaro con puntolini verdi, il naso sottile, il mento appuntito. Ella aveva gli zigomi alti e le gote incavate, una sigaretta le ciondolava dalle labbra piene. Il suo viso rispecchiava le energie di coloro che sono riusciti a sopravvivere al pericolo. Masha pesava adesso 49 chili, ma al momento della liberazione era arrivata a pesarne 32. «Dov'è tua madre?» domandò Hermann. «In camera sua. Verrà tra poco. Mettiti a sedere. Tieni, ti ho portato un regalo.» Le porse un pacchetto. «Un regalo? Non devi portarmi continuamente regali. Che cos'è?» «È una scatola per tenerci i francobolli.» «I francobolli? Farà comodo. Ce ne sono già francobolli?» «Sì, ce ne sono. Io ho un centinaio di lettere da scrivere, ma le settimane passano e a quanto pare non riesco a prendere la penna in mano. Il pretesto con il quale scuso me stessa è che non ci sono francobolli in casa. Adesso non avrò più alcuna scusa. Grazie, caro, grazie. Non avresti dovuto spendere soldi. Beh, mangiamo. Ho cucinato qualcosa che ti piace, stufato e fiocchi d'avena. Mi avevi promesso di non cucinare più carne. L'avevo promesso anche a me stessa. Senza carne non si sa che cosa cucinare. Dio stesso mangia carne. Carne umana. Non esistono vegetariani, nemmeno uno. Se tu avessi assistito a quello che ho visto io, sapresti che Dio approva i massacri. Non sei costretta a fare tutto quello che vuole Dio. Sì, invece, sì. La porta dell'altra stanza si aprì e Chiffrapois entrò. Era più alta di Masha, una brunetta dagli occhi scuri, con i capelli neri, striati di grigio, che portava raccolto in una crocchia, il naso affilato e sopracciglia unite alla radice del naso. Aveva una piccola escrescenza sul labbro superiore e sul mento le crescevano i peli. La gota sinistra era segnata da una cicatrice lasciata da una baionetta nazista nelle prime settimane dell'invasione di Hitler. Si poteva constatare facilmente che doveva essere stata un tempo una donna ricca di fascino. Meyer Bloch si era innamorato di lei e aveva composto in suo onore canzoni ebraiche, ma i campi di concentramento e le malattie erano stati la sua rovina. Chifrapoix vestiva sempre di nero, portava ancora il lutto per il marito, i suoi genitori, le sorelle, i fratelli, tutti sterminati nei ghetti e nei campi. Ora socchiudeva gli occhi come qualcuno che all'improvviso emerga dalle tenebre alla luce. Alzò le piccole mani dalle lunghe dita, come per lisciarsi i capelli, e disse: «Oh, Hermann, quasi non ti riconoscevo. Ho preso l'abitudine di mettermi a sedere e di addormentarmi. Di notte giaccio completamente desta fino al mattino, pensando, e durante il giorno i miei occhi anelano il sonno. Ho dormito a lungo?» «Chi lo sa?» disse Masha. «Non sapevo nemmeno che ti fossi addormentata. Si aggira per la casa silenziosa come un topolino. Ci sono veri topi qui, ed io non riesco più a distinguerli da lei. Cammina per la casa tutta notte, e non si dà neppure la pena di accendere la luce. Uno di questi giorni cadrai nel buio e ti romperai una gamba. Ricordati delle mie parole.» «Ecco che ricominci. In realtà non dormo, ma un sipario sembra scendermi davanti alla faccia. E la mente mi si svuota. A te non può succedere. Che cos'è questo odore che sento? Sta bruciando qualcosa? Non brucia niente, mamma, non brucia niente. Mia madre ha una singolare abitudine. Di tutto quello che fa lei stessa, incolpa me. Fa bruciare tutto quello che cucina e non appena io preparo qualcosa, lei sente odore di bruciato. Se si versa un bicchiere di latte lo fa traboccare e poi mi ammonisce invitandomi a stare attenta. Deve essere una malattia di Hitler. Nel nostro campo di concentramento c'era una donna che faceva la spia agli altri, li accusava proprio delle cose che faceva lei stessa. Era patologico e comico anche. Non esistono persone pazze, i pazzi fingono soltanto di esserlo. Sì, sì, sono tutti sani di mente, soltanto tua madre è pazza, borbottò Chifrapoix. Non intendevo dire questo, mamma, non mettermi le parole in bocca. Siedi, Hermann, siedi. Hermann mi ha portato un cofanetto per metterci i francobolli. Ora dovrò per forza scrivere le lettere. Avrei dovuto far pulizia nella tua stanza oggi, Hermann, ma sono stata impegnata in mille cose. Te l'ho detto. Sii un pensionante come tutti gli altri. Se non pretendi che la tua camera venga tenuta pulita in ordine, vivrai nel sudiciume. I nazisti mi hanno costretta a fare cose per tanto di quel tempo che ora non so fare più niente di mia iniziativa. Se voglio fare qualcosa, devo immaginare che un tedesco mi stia minacciando col fucile. Ho finito per togliere il conto che la schiavitù non è poi una così gran tragedia, in fin dei conti. Per ottenere che le cose vengano fatte, non esiste niente di meglio della frusta. Ma sentila quanto insiste. Domandale di che cosa sta parlando, si lamentò Chifrapoix. Deve sempre contraddire, ecco tutto. Ha ereditato questo vizio dalla famiglia di suo padre. Possa egli riposare nel paradiso terrestre. A tutti loro piaceva discutere. Mio padre, tuo nonno, possa riposare in pace, disse una volta: «I loro ragionamenti talmudici sono brillanti, ma in qualche modo finiscono col dimostrare che è consentito mangiare pane a Pasqua». «Ma come vi è finito il pane a Pasqua in questo discorso?» «Fammi piacere, mamma, mettiti a sedere. Non sopporto di vederti in piedi e così tremolante. Immagino sempre che stia per cadere da un momento all'altro. E cade, davvero. Non passa giorno senza che cada». «Che altro inventerai ancora sul mio conto?» «Ero distesa su un letto d'ospedale, a Lublino, e mi trovavo sulle soglie della morte. Finalmente mi sentivo in pace. A un tratto appare lei e mi richiama dall'altro mondo. Che bisogno avevi di me se continui a raccontare bugie sul mio conto?» «È un piacere. Chiunque abbia assaggiato la morte non sa più che cosa farsi della vita. Credevo che fosse morta anche lei, e a un tratto mi accorgo che è viva ed è venuta a cercarmi. Un giorno mi trova e il giorno seguente già mi risponde male e mi punge con mille aghi. Se dovessi raccontare tutto, chiunque ascoltasse mi crederebbe pazza. Lo sei, mamma, lo sei, ci vorrebbe un barile d'inchiostro per descrivere lo stato in cui si trovava quando la portai fuori dalla Polonia. Una cosa però posso dirla. Nessuno mi ha mai tormentata quanto mi tormenta lei. Che cosa ti ho fatto, figlia, perché tu mi parli così? Eri sana anche allora, possa non capitarti mai il malocchio, mentre io potevo considerarmi già morta, glielo dissi apertamente, non voglio più vivere. Ne ho avuto abbastanza, ma lei mi trascinò di nuovo indietro, alla vita, con furia. Con l'ira puoi distruggere una persona, ma puoi anche riportarla alla vita. Perché avevi bisogno di me? Solleticava la tua fantasia avere una madre, ecco tutto. E quel tuo marito, Leon, non mi piacque mai, sin dal principio. Gli diedi un'occhiata e dissi, figlia è un impostore. Tutto sta scritto sulla fronte di una persona, dicono, se sai leggerla. Mia figlia sa leggere i libri più difficili, ma quando si tratta della gente non distingue le mani dai piedi. E adesso? Ecco che è stata lasciata qui, una moglie abbandonata, una donna senza marito per sempre. Se vorrò sposarmi, non aspetterò il divorzio. Cosa? Siamo ancora ebrei, non gentili. Che cosa sta succedendo allo stufato? Per quanto tempo uno stufato deve restare sul fuoco? La carne si scioglierà. Lascia che gli dia un'occhiata. Oh mio Dio, non c'è più una goccia d'acqua nella pentola. Ah, non ci si può fidare di lei. Io l'ho sentito l'odore di bruciato. Hanno fatto di me un'invalida, quei demoni, ma il senso dell'odorato ce l'ho ancora. E dove li hai gli occhi? Hai letto troppi libri ridicoli. Dio abbia pietà di me.